Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il Giro d'Italia quest'anno è veramente molto difficile, le prime settimane sono veramente molto impegnative, quindi bisogna essere subito pronti. Ci sono tante tappe veramente difficili da affrontare, questo lo vedremo lungo la strada. Io credo che va a essere un giro abbastanza combattivo, un giro di molta pressione, perché come ha detto un compagno di ustedes, esta vez se presentan equipos con mucho más líderes mucho más líderes más sólidos, entonces es un poco más complicado. Quintana è quello messo al primo posto, poi successivamente arrivano tutti gli altri e non bisogna sottovalutare nessuno. L'obiettivo è quello di far bene, perché anche per la squadra l'obiettivo è quello di arrivare a Milano alla fine con il miglior risultato possibile. Sì, Quigui è un corredor che sta forte, è un corredor che ha fatto molte volte questa carriera, le tiene confianza e ha stato molto cerca. Ha tenuto la camiseta, il maillot, e ora, pues, junto con Ibali, penso che staranno molto forti. Sono corredori per tenere in cuenta e anche corredori che tienen che defender e aportar anche per il movimento delle carriere. Nibali e Quintana, di splendori e miserie nel mondo del calcio ci occuperemo dopo, tra poco, dopo la viabilità, ma è d'obbligo l'apertura sul Giro d'Italia numero 100 con Giovanni Capuano qui con me. Eccomi Carlo, ciao. Ciao Giovanni. Che inizia il Giro, inizia, sì. È iniziato. Oh, perché non sapevi? È una novità. Sapevo. Ah, ecco. Anche perché ce ne occuperemo pure la domenica, dalle 17 alle 19. Sì, largo spazio. Adesso abbiamo largo tre spazio. Weekend meravigliosi tra motori, Giro d'Italia e quello che resta del calcio. E quel che resta del calcio, speriamo. In attesa del quarto weekend, che è quello della finale di Cardiff. Certo, comunque la finale ci sarà. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. 800 24 0024 per voi che potete chiamare, parlare, dire la vostra su ogni argomento sportivo o non. I nostri occhi e la nostra voce al Giro d'Italia, come sempre Pier Augusto Stagi. Ciao Pier Augusto. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Copertina dedicata a Nibali e Quintana, favoriti designati di questo Giro d'Italia che è già cominciato in Sardegna, tappa già partita l'Alghero Olbia, a casa di un triste Aru. Sì, stamattina Aru tra l'altro è stato applauditissimo, perché comunque è venuto a salutare tutti, è passato prima dalla spada del suo team a darle in bocca al lupo, poi è salito sul palco, ha salutato veramente una marea di gente, c'era Alghera invaso, rosa, tumultuosa, passionale, bella. È stata una grande partenza, purtroppo come sapete un po' rovinata, non tantissimo, ma rovinata in ogni caso da questi due scellerati che ieri sera si sono fatti beccare e cacciare a casa in malo modo, sono appunto Ruffoni e Pirazzi, però il giro macina tutto, il Giro d'Italia è una macchina grossa, i corridori hanno spalle forti e speriamo che sappiano reagire, regalare dello spettacolo, regalare soprattutto della credibilità. Mi aspetto un Giro d'Italia speciale. D'altra parte non è la prima volta, sarà la millesima, no, perché è il Giro d'Italia numero 100, ma l'ennesima. Bravo. Certamente che prima del via qualcuno viene, qualche delinquente viene rispedito a casa. Non potrò mai dimenticare ad esempio il primo Giro d'Italia che ho seguito con Dario Ceccarelli, con te, con Cristiano Gatti, con tutta la meravigliosa banda, per questa che è la più bella gita per adulti che si possa fare, intorno al in giro per l'Italia per l'appunto. Non dimenticherò mai quella prima edizione del 2000, partenza da Roma, e un tale Eugeni Berzin, che pure qualcosa contava e pure qualcosa aveva vinto, che venne spedito a casa prima del pronti via. Questo è un mio ricordo personale. Sì, il problema è che si fa la conta lì tutti gli anni. Però devo dire che da profano qualcosa di diverso ho visto. Qualcosa di diverso ho visto, perché, ad esempio, ho visto lo sfogo di Bruno Reverberi, che è il capo della squadra dei due di cui stiamo parlando. Che, insomma, finalmente l'ho visto esprimersi senza, con nettezza, senza nessuna zona d'ombra. Questi sono non credo a una parola di quello che dicono. Sono le solite palle. Tutti dicono di non saperne niente, vanno a casa e si trovino un lavoro. Che insomma è già un'evoluzione importante, lo so, no, Giovanni, però io oggi non lo so, sarò, ci avrò la mia sindrome la mia sindrome di cattivo umore, però anche lì mi ricordo troppe volte direttori sportivi fare Ponzio Pilato con l'acqua delle fontanelle. Tagi? Ah, era una domanda? No, era un'affermazione che volevo condividere con te. Sì, nel caso specifico devo dire che io credo a quello che ti riferisci tu, era un altro ciclismo. Io sì, no, su sia... questo, ecco, questa è la nota positiva, quello era un altro ciclismo. Era un altro ciclismo, quello era un altro, e lì veramente c'era una grande connivenza, e hai ragione a dire che erano tanti Ponzio Pilato che ti scaricavano al volo. Adesso a tutti gli effetti sono ipercontrollati, firmano contratti molto importanti ma anche con delle clausole capestro incredibili. Non c'è difesa per nessuno, perché addirittura ci sono sponsor, bisogna dirlo, è uscito un comunicato poco fa da parte della Barbiani CSS, chiedo scusa se faccio pubblicità, ma il nome, della squadra. Che rinnova fiducia al team dicendo: bene, abbiamo fatto mille marce, investiremo su quattro ragazzi che sappiano dare continuità a un team che deve credere fortemente in questo sport e nei giovani. Sì, no, ma infatti guarda Pierogusto, Chiedono le vittorie, non chiedono le vittorie, lo fanno proprio per una questione di marketing. No, ma questo è chiaro, ma guarda, i ricordi che riportavo a galla io, che mi riaffioravano nella testa, erano, hai ragione tu, ed è questa la chiave, riferite a un altro ciclismo, quello degli anni 90, quello dei primi anni 2000, in cui dovevamo rimanere in sala stampa fino alle 11 di sera perché arrivavano i NAS, perché dove abbiamo assistito alle più improbabili delle conferenze stampa, dalle caramelle ai diuretici delle maglie rosa. Quindi era un altro ciclismo. Di fatto ormai da anni assistiamo a delle corse che sono comunque diverse. E quello che ti voglio dire è che questa sarà diversa in maniera positiva, io credo, perché è un giro che ha molti risvolti, non soltanto perché porta la bandiera numero 100 sulla schiena, porta il vessillo numero 100, ma perché ci sono mille risvolti che lo accompagnano, ovviamente non tutti lieti, anzi in alcuni casi tristi, dalla tristezza sportiva di Aru alla tristezza enorme per Michele Scarponi. Ed è per questo che io mi aspetto davvero qualcosa di speciale da questo Giro d'Italia, dai corridori e dal pubblico. Guarda, il pubblico ha già risposto, come ti ho detto, io credo che i corridori risponderanno. Basta sentire le parole di Vincenzo Nibali, che è stato fino a qualche mese fa il compagno di squadra di Michele Scarponi, è stato l'uomo che forse ha ricevuto, l'ultimo uomo che ha ricevuto il dono più grande da parte di Michele Scarponi, la tappa dell'anno scorso, sì. Ce l'abbiamo tutti. Senti, nel cuore e negli occhi. Pier, ti interrompo un attimo perché abbiamo al volo il CT Davide Cassani, che saluto e ringrazio. Eccomi. Ciao Davide. Ciao. Al volo ti chiedo solo una cosa, di condividere una considerazione che stavo facendo con Stagi, i nostri occhi e la nostra voce, per questo come per tutti gli altri giri. Per tutto quello che è successo, perché è il Giro d'Italia numero 100, per i risvolti amari sportivamente e umanamente che accompagnano questo giro, io mi aspetto, dicevo, dai corridori e dal pubblico, e voglio fare il nome di Vincenzo Nibali in particolare, qualcosa di davvero speciale. Questo è quello che mi accompagna verso il Giro d'Italia, la sensazione che porto verso il Giro d'Italia. Ma sai, sicuramente Nibali avrà sempre questo pensiero, questa figura al suo fianco, anche se non era più compagno del suo di squadra, ma l'anno scorso è stato fondamentale nella vittoria. Michele era un grande uomo, persona generosa, buona, simpatica. Era un vero capitano perché era importante in corsa, ma lo era ancora di più fuori corsa. Quindi penso che comunque da Nibali in giù tutti i corridori abbiano un pensiero fisso, è quello di onorare al meglio uno che faceva parte del gruppo fino a qualche giorno fa ed era uno dei migliori. Era uno dei migliori certamente, ma anche tu comunque ti aspetti una risposta quasi rabbiosa da parte, agonisticamente rabbiosa, qualcosa di strano, di particolare, di unico da parte dei corridori che abbiamo? Me l'aspetto, anche se due incoscienti hanno comunque rovinato la festa di ieri, sì. E quindi penso che anche questo Giro d'Italia che è partito oggi sia un modo per i corridori di far vedere chi sono veramente, e cioè tutti i corridori che lottano nella massima lealtà. Grazie Davide, ci sentiamo nel corso del Giro, a giochi in corso. Va bene. Con Pieragusto Stagi invece ci sentiamo molto più spesso. Ciao Pier, ti do appuntamento a più tardi. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Adesso ci fermiamo per il traffico e poi andiamo su, come ho detto prima Giovanni, splendori e miserie della settimana del pallone. Di questa settimana che non vediamo l'ora che finisca. L'ora che finisca, però ci teniamo le cose belle dalle due semifinali di Champions che abbiamo visto, a parole da uomini veri, di Buffone, di Marchisio, tanto per cominciare. Comunque, 800240024, guardateci anche sul web attraverso la pagina di Radio 24 e il Facebook, perché potete vederci. Voi ci vedete, noi non vediamo voi, ma fa lo stesso, magari vi sentiamo. 800240024. Tutti convocati, tutti convocati, tutti convocati, tutti convocati. Tutti convocati. Allora, dopo il doveroso avvio dalla Sardegna e dal Giro d'Italia numero 100, che come abbiamo sentito ha mille e un risvolto che racconteremo ovviamente, adesso insieme a Giovanni Capuano e a Pierluigi Pardo, che ci ha raggiunto, il nostro Globetrotter. Sì. Eccolo qua. Eccoci. Se siete d'accordo, facciamo un bel giro a Roma. Dalla Sardegna ci spostiamo. Non è che si sposta molto, eh? No, si prende un comodo traghetto fino a Civitavecchia, ma Pardo la sa meglio quella strada, la conosce molto meglio, no? Sì, sì, sì, sì, la 12. La 12. C'è traffico, facciamo. Non lo so, io sono sul treno. Il traffico. No, io direi facciamo un salto a Roma, perché lì sono successe un sacco di cose in settimana di recente, alcune anche inaccettabili che stiamo sentendo, di cui ho parlato prima nel giornale radio. Di questa settimana ci teniamo il ricordo di due meravigliose squadre, una tutta vestita di bianco e l'altra di bianco nero, di grandissimi campioni, di due grandi semifinali di Champions League. Tutto il resto io lo brucerei nell'inceneritore della memoria, utilizzando come benzina i pennelli di quegli animali di Torino e di Roma. Sapete, avete letto, visto, è stato rivendicato sui mai troppo da me detestati social network. Che ci posso fare? Lo dico pubblicamente, perché diventano molto spesso e sempre più spesso una discarica. Rivendicati dai laziali, tre manichini appesi davanti al Colosseo, no Giovanni, Nainggolan, De Rossi e Salah, rispettive magliette, quello striscione. Sì, con l'invito a dormire con la luce accesa, ecco. Che poi voleva essere, credo, Gogliardi allo sfottò per dire questa non è Gogliardia in una settimana come questa, piena di porcate, in una settimana come questa non può essere derubricata sotto la voce Gogliardia. Io metterei questi in prigione, spegnerei la luce, mi rimane la mare in bocca perché non verrà fatto, passerà tutto in cavalleria come troppo spesso succede, e dunque andiamo bene così, andiamo avanti così e teniamoci queste queste vigliaccate, queste porcherie, senza mai abituarci, al limite deprimendoci un po'. Ma no, deve succedere quello che ha fatto Buffon con la Juve. Io, guarda, c'è stato stamattina un po' di dubbio, no? Di dubbio, perché sembrava addirittura che fosse una sorta di avvertimento, era un'ipotesi, no? Fra le varie ipotesi di scuola stamattina, da parte di alcuni tifosi, pseudo tifosi romanisti. In realtà invece poi c'è stata questa rivendicazione, questi video. Quindi passiamo, diciamo, dalla intimidazione a qualcosa di comunque grave, che è una caduta di stile assolutamente inaccettabile, ed è giusto secondo me che la Lazio, così come ha fatto Buffon con grande coraggio e con grande qualità ieri a proposito delle sì, stile, sì, che la Lazio e i giocatori della Lazio prendano, dicano che questa cosa non si può fare. E adesso recuperiamo Pardo al cellulare. Mm. Che i giocatori della Lazio intervengano. Ecco, Buffon è una delle cose da salvare. Così sì, come è una delle cose da salvare, e sarà il caso che lo facciano in tanti, perché questa è stata una settimana, da questo punto di vista abbiamo fatto tripletta. Abbiamo fatto poker, perché abbiamo visto gli striscioni, diciamo, di incoraggiamento, tra virgolette, ai giocatori della Fiorentina. Marassi, domenica scorsa, una partita è stata interrotta dal lancio di fumogeni, solite contestazioni, eccetera, quella del Genoa. Che per carità ha mille difetti per come sta facendo il girone di ritorno, ma avrebbe bisogno di tutt'altro. Poi insomma il resto l'abbiamo visto, ma del resto avevamo aperto la giornata con la settimana con la vicenda Montari surreale, no? E quindi facciamo sì, finta, sì, facciamo, voltiamo facciamo pagina rotto, e vediamo che cosa succede da domani. Certo, con poca speranza che cambino, ma le cose, nessuna speranza, diciamo, che cambino, se no, se quei l'unica cosa che può succedere è che tutti prendano esempio da Buffon, prendano le distanze da questi bastardi, e che magari qualcuno di questi si presenti a viso scoperto: sono stato io, ok, presentatevi alla polizia, sono stato io, e vediamo cosa succede. Oppure questi della, che hanno l'autorità in mano, si mettano di buon grado e ci facciano vedere le facce di questi stronzi una volta per tutte, se no a quel punto dimentichiamo, giriamo pagina e prepariamoci a fare la schedina, a parlare di calcio e a tenerci ciò che ci resta. Allora, a proposito di calcio, 800240024 il numero verde, permettetemi la rabbia e lo sfogo, ma sto bruciando, no? Come ho detto prima, nell'inceneritore della mia memoria, il fuoco crepita. Allora, ieri Mourinho, giocato la semifinale di Europa League, un'Europa League che secondo me vincerà, andando in Champions League, alzando un titolo, salvando in qualche modo la sua stagione, che però è andato a ficcare il naso, come spesso fa con grande intelligenza, in casa altrui. Sia Antonio, sia Pioli, sia Mancini, come è stato, Ranieri, tutti quelli che sono arrivati dopo me, sono i miei allenatori, sono l'allenatore che io voglio sempre appoggiare, che voglio che vince, e che voglio che interessi, sono felice di nuovo. Sia Antonio, sarà il mio allenatore. Quello che ti assomiglia di più? No, nei capelli non siamo uguali, lui capelli neri, io capelli bianchi. Ma perché non ci torna lui un giorno o l'altro? Così tagliamo la testa al toro! E tutto il mondo interista è felice. Ma no, ma perché è meglio di no? È meglio di no. Ma è meglio di sì, Pardo. Finirebbe per rovinare. Sei d'accordo con me? Finirebbe per rovinare un quadro che è perfetto. D'altra parte, oggi siamo in due contro Capuano. Non solo per motivi di schedina, so che state affilando agonisticamente. Non so come è finita settimana scorsa. Settimana scorsa un bagno di sangue calcistico a favore di Capuano, che ha meno uno e punta all'aggancio nella nostra speciale classifica certificata in carta da bollo da Giorgio De Luca, il notaio napoletano svizzero. No, ma il tema è quell'altro, però, che mi avete preannunciato prima in redazione. Il tema è quello su Totti, sì. E infatti è lì che voglio arrivare. Secondo me fanno testo le parole di ieri ne abbiamo parlato con Luca Valdiserri, fanno testo le parole di ieri di Fabio Capello, grande amico di Pardo, che ha detto: hanno dovuto chiamare uno dall'estero per risolvere la questione. E io sto con quelle parole di Capello, non so tu, Pardo. Io sono d'accordo con quello che dici, nel senso che è chiaro che Nonci deve rappresentare le speranze della società giallorossa e dei tifosi giallorossi un nuovo inizio, l'ennesimo nuovo inizio, va detto, di una società che comunque adesso meglio. Oh, è ricaduto. No, io sinceramente vi ho sentito ieri, vi ho seguito e non ho capito perché bisogna dare a Monchi la responsabilità e il privilegio anche di aver fatto questa cosa, quando un anno fa c'è un presidente Pallotta che ha messo nero su bianco in un comunicato che questa sarebbe stata l'ultima stagione di Totti da giocatore della Roma. E io non riesco a capire perché Agnelli, che lo dice di Del Piero un anno prima circa, viene preso sul serio e Pallotta no, bisogna aspettare che arrivi Monchi a dire perché poi fondamentalmente non c'è mai stata, questo perché non c'è mai stata una chiarezza scritta. Sì, ma Monchi non arriva, lo so, dice, io sono qui so da una settimana, ragione, Giovanni, so non so se hai ragione tu che alla Roma hanno fatto le cose da società seria e finalmente per bene e hanno così seguito un percorso già scritto in lineare. Fatto sta che Totti, ad esempio, la settimana scorsa pre-derby ha avuto mille occasioni per annunciare lui stesso come dovrebbe essere fatto il ritiro, come era scritto, no? Come era scritto, e non lo ha fatto. Ha fatto anche un'intervista con Pardo, che credo sia tornato, non è tornato, non riusciamo ad agganciarlo, andiamo avanti e te. Lui ha avuto mille occasioni per farlo, avrebbe potuto farlo mille volte. 0024. La verità però è un altro. Sì. Se lui non ha voglia di dirlo, è legittimo che non lo dica. Esattamente come Del Piero, non lo disse fino al giorno dell'ultimo giro, tra l'altro manco si ritirò Del Piero, perché poi è andato avanti a giocare in Australia. Sì, ma magari nemmeno Totti. Magari anche Totti fa questa scelta. Quello che io non capisco è perché sia necessario derubricare quello che mise nero su bianco Pallotta. Guarda, ho qui il comunicato ufficiale con tanto di virgolettato, due volte c'è scritto è l'ultima stagione. Sì, ma l'ha non letto viene anche preso Totti sul serio, quel comunicato non lì, viene preso sul serio. Ma anche Del Piero aveva sentito Agnelli dire applaudiamo il nostro capitano. Perfetto, che per l'ultimo però anno Del Piero gioca non con ha noi mai avuto mezza speranza di rimanere in bianco nero. Beh, insomma, giusto? Mi sembra che lui ci credesse fino in fondo, no, fino al famoso gol con la Lazio. Io non credo, sì, quando fece il gesto io rimango qui, ma non so se siamo abituati così, però quella dettata da Agnelli era la legge scritta e quindi nessun dubbio c'è stato. Per quanto riguarda la Roma, non lo so se sbagliamo noi o sbaglio io a dire ma vediamo, l'ha detto lo stesso Spalletti, bisogna pensare al contratto di Totti, ti ricordi? Secondo me la differenza tra Roma e Torino è nel contesto che c'è intorno, perché poi il messaggio è stato dato con la stessa chiarezza. Poi è ovvio che quello che viene detto da Agnelli magari a Torino è stato preso con un'altezza che a Roma non succede, e quindi un anno dopo c'è stato bisogno della ribattuta. Però Monchi non ha fatto nient'altro che dire questo: sono qui da una settimana, so che esiste già un accordo, ed è un accordo che era nero su bianco. Sì, però è la prima volta che alla fine diamo per finita la vicenda Totti. Su questo possiamo essere fortuna d'accordo. No, ma è la prima volta dopo che ha parlato Monchi che diamo definitivamente per conclusa la vicenda Totti, giusto? Questo non c'è dubbio. Ecco, allora su questo punto ci possiamo trovare d'accordo. Mi dica? Vediamo i mercati come reagiscono. Vediamo i mercati come reagiscono alla notizia? Va bene, vediamo i mercati come reagiscono alla notizia. Torniamo, purtroppo i collegamenti con Pardo non ci permettono di stilare la schedina. Lo faremo o lo farete usando i vostri ben amati social network, che io cordialmente detesto. Ragazzi, chiedetemi l'amicizia, io concedo amicizia a tutti su Facebook, ma non aspettatevi grandi reazioni. Dunque, ci fermiamo per la borsa e poi torniamo andando sul bello di questa settimana e sul bello del turno di campionato che verrà. Tutti convocati. Il duello Macron-Le Pen si è trasformato nell'evento centrale della politica europea. La sfida francese divide gli osservatori e cattura le speranze dei politici di mezza Europa. In diretta da Parigi con inviati ed esperti, Radio 24 seguirà i momenti decisivi del ballottaggio. Speciale Eliseo con Gigi Donelli, domenica 7 maggio dalle 19 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Così come a metà campo, quindi vedrò come stanno i ragazzi, però domani anche se ci sarà qualche cambio, non credo, non pregiudicherà assolutamente la prestazione. E poi un'altra cosa che riguarda proprio il derby, la ricorrenza particolare di questo derby e le tante belle parole che abbiamo letto sui social da parte di Buffon, Dybala, Marchisio, volevo anche da lei un commento, insomma, per questo clima che sta portando al derby, che insomma nasce in un bel modo. Ma deve essere così, perché dopo alla fine il derby è sempre un evento sportivo importante, bello, di cui la città Torino deve andare fiera. Però per andare fiera bisogna che i tifosi si comportino in modo educato, rispettoso, andando allo stadio e tifando per la propria squadra, che dopo alla fine questo credo che sia la normalità. E di fronte a, ieri era la commemorazione di Superga, di fronte alle tragedie non ci sono né colori e né bandiere, ma ci serve solo ed unicamente grande rispetto. Dedicato a chi dice che non siamo in diretta, che numero è questo? Guardateci su Facebook e sul sito di Radio 24, perché potete vederci anche lì oltre che sentirci. Questo è Allegri in diretta. Ha parlato anche Mihajlovic. Ha detto: la Juve non ha punti deboli, hanno la difesa più forte del mondo e questo è un bel banco di prova. Da centrocampo in su hanno giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, ma non penso che esistano squadre imbattibili. E quindi ci proveremo, però non sarebbe disonorevole perdere, lo sarebbe perdere senza aver dato tutto quello che si poteva dare, e io sono sicuro che domani ce la metteremo tutta. Bananità. Questo è il verbo di Mihajlovic. Un po' banale, no? No, però domani è un derby aperto. Guarda, io questa settimana ho avuto derby, modo di rivedermi tanti degli ultimi derby, anche quelli giocati allo Juventus Stadium, e la Juve l'ha sfangata spesso e volentieri, oltre, mi pare di aver intuito oltre l'ultimo limite. Dalle parole di Allegri che domani saranno tante facce diverse in campo. Beh, ma è normale. Come normale, questa era la partita deputata al turnover. Appunto. E difatti contro l'Atalanta avevano giocato tutti i titolari, ma il calendario, l'avevamo detto, no, settimana scorsa, imponeva che fosse il derby la partita sacrificata. E difatti io non sono sicuro che questo sia il fine settimana dello scudetto, se devo dirti la verità. Allora, ascoltatori in diretta, 800 24 00 24, numero verde. Oggi è venerdì, come sapete, dopo il GR Racing Team di Radio 24 con Roberto Lungaro, che ci raggiungerà, e potete vederlo, con Leo Turrini, che ci raggiungerà telefonicamente e potete sentirlo. E potete ovviamente intervenire sempre al solito numero 800 24 00 24, è il numero verde. Igor, buongiorno. Buongiorno, è un onore essere convocato. Onore mio. Dica. Grazie. Io tifoso juventino, ma però ci tengo a sottolineare che in un mondo come quello del calcio, fatto spesso di dichiarazioni ipocrite, false se vogliamo, di convenienza e di giocatori che hanno anche paura a schierarsi contro il volere delle curve. Volevo dire, ma che uomini veri sono Buffon e Marchisio, per la sincerità, a mio parere, delle parole che hanno detto ieri, perché non ho mai sentito nessun calciatore per paura, secondo me, schierarsi contro i cori dell'Iser che spesso sentiamo. Questo è l'unico modo per combattere l'imbecillità delle curve. Signori calciatori, se lo devono mettere in testa, è l'unico modo possibile ed immaginabile, e finché nessun calciatore prenderà, scusatemi il termine, i coglioni in mano e farà questo tipo di dichiarazioni, andremo sempre in direzione opposta. Ma poi vede i manichini impiccati, vede, io posso capire anche un certo tasso di paura, non capisco che sono spesso ragazzini. Non sopporto la connivenza, il fatto di andare a parlare con i tifosi e magari di farsi risolvere i problemi, io sono amico di quello e quello è mio amico e non ne devo stare attento a con chi parlo e devo andare con la testa china sotto la curva se le cose non vanno bene. Ecco, queste cose mi fanno schifo, mi fanno, non ho un'altra parola. Poi se uno si comporta da uomo vero, è vero, ma da uomo, con la civiltà che possiede, perché non si tratta di gesti super, si tratta di gesti da uomini veri, quelli di Buffon, di Marchisio, le parole di Allegri, quello che sì, sì. E poi l'importante è che capitino ovunque, cioè non solo da personaggi come Buffon. che c'è un passaggio bellissimo, lui scrive: io vi scrivo queste cose perché so che con voi posso permettermelo per tutto quello che abbiamo condiviso in questi anni. Hai ragione, sono gesti normali, in realtà dovrebbero essere, dovrebbero farli in tanti, dovrebbero in tanti, ad esempio, uscire da un campo se ci sono insulti razzisti, per dire non si gioca, ma non gioca quello di colore, non giocano tutti gli altri. Guarda, ma non riapriamo perché abbiamo appena avuto una discussione anche di là in redazione con Cruciani. Lasciamo stare queste cose, perché come ti ho detto prima le sto incendiando nella mia testa. Però sarebbe bello vedere magari la squadra di casa che esce agli insulti razzisti. Sarebbero belle tante cose. Io mi accontenterei che da qui a domenica pomeriggio alle 15 qualcuno rinsavisse e cancellasse la squalifica di Montari con un editto presidenziale papale. Io capisco il regolamento, capisco tutto, ma come ha detto anche il nostro amico Paolo Condò, quell'immagine, cioè l'idea che poi alla fine il punito sia Montari, anche se ci sono mille attenuanti per l'arbitro e tutto, è un'immagine devastante. Vediamo di parlare di altre cose magari. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Dica. Siamo da Roma. A proposito di cose belle, anche se non come le dichiarazioni di Buffon, anche a Roma è successa una bella cosa. Le dichiarazioni del capitano della Lazio su Totti dopo avergli chiesto la maglia, l'ho trovato un bellissimo gesto. Per quanto riguarda l'orrore che hanno fatto questa notte qui a Roma, non lontano da casa mia, vi farei una preghiera: non la chiamate goliardia. Io ho tanti Io me ne guardo bene e mi ha sentito esprimere, anzi chiedo scusa perché prima ho usato parole di rabbia. Nessuno la chiama goliardia, perdonami, l'ho usata io la parola goliardia, ma era per provare, secondo anche quelli che sono in questo momento i primi riscontri dell'inchiesta, per provare a spiegare da che cosa nasce quella cosa, cioè se non sono minacce. Sembra una follia quello che sto dicendo, ma se non sono minacce dei propri tifosi e ai propri giocatori, che nella follia ha un senso ed è spiegabile, la questione pare nascerebbe tutto da uno scambio di striscioni, ma evidentemente poi la questione è completamente sfuggita di mano e siamo davanti a qualcosa che va perseguito, ma è il tentativo di spiegare dove sarebbe nata questa cosa di questa notte. Non c'è una spiegazione, ha capito? Sì, sì. Cioè, non si può giustificare in alcun modo. Io non riesco a capirla, da essere umano non riesco a capirla, ma comunque ovviamente ognuno ha i suoi limiti. Io ne ho un sacco, per esempio. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ecco, guardi, forse sono fuori luogo, perché parlate di cose più importanti che non dell'Inter, che la mia squadra. E volevo solo chiedere una cosa: perché adesso nessuno parla più, che quello mi interesserebbe tanto, di Mancini? In che senso, tutte le cose che ha detto quando se n'è andato, che tutti hanno detto che è un allenatore finito, fallito, e tutte quelle balle lì. Io invece devo spezzo una lancia a suo favore, perché tutte le cose che ha detto, l'ho letto sul giornale Gazzetta, che Gabigol è un bravo ragazzo, ma è un ragazzo che non è pronto, che Gioia Mario è un doppione di Brozovic, che Banega è un giocatore bravo ma non si sa che ruolo ha, che servono altri giocatori importanti e non il turco che viene a fare il terzino sinistro, che voleva Yaya Touré, che anche Guardiola l'aveva cacciato via, adesso gioca titolare e guai se non c'è nel Manchester City. Queste cose qua nessuno le dice più. E a me mi dispiace, perché io di Mancini intanto era senz'altro un'immagine degli assenti, poi quelli che mollano la baracca, se la baracca poi crolla hanno sempre ragione. Però è vero, è paradossale che oggi ci siano ancora tantissimi, la maggioranza dei tifosi dell'Inter che ritengono che l'origine della pessima stagione, che comunque va da sesto, settimo posto e fallimentare, di questa stagione dell'Inter sia colpa di Mancini, delle sue scelte, del suo modo di gestire i mesi prima del divorzio. E invece è un paradosso, perché in realtà ha ragione Enzo, molti dei motivi di frizione tra Mancini e quello che restava in quel momento della società erano su questioni che il tempo ha detto poi aveva assolutamente ragione Mancini, compresa l'organizzazione della tournée estiva che non dipendeva da lui e che ha reso quasi impossibile completare una preparazione accettabile dal punto di vista fisico. Sì, Mancini comunque non compresa accettava... la confusione che c'era in società, chi decideva, chi comprava chi, con che logica, con che testa. Beh, e voleva essere lui quello che decideva. Ma è meglio Mancini piuttosto che un procuratore esterno. visto che sono stati spesi 80 milioni alcuno. In due giorni non, per due giocatori, uno non gioca mai e l'altro è una riserva. Traffico. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. A Capuano e Pardo, sebbene oggi in contumacia piace molto fare la schedina che troverete sui social network, io invece mi appassiono molto sui numeri di quelli che vengono a visitarci via video, quindi ogni volta chiedo a De Luca, che non mi sopporterà più, ma quanti ci guardano? Spero tanti, su Facebook e sul sito di Radio 24. Saluto Riccardo Trevisani, non potete vederlo ma potete sentirlo, lui. Beh, un bene non potermi vedere, sarebbe un bene non poter vedere Marto. Non dire sciocchezze, Un sex symbol come Riccardo Trevisani, dai. Ascolta, buon pomeriggio ragazzi. Buon pomeriggio a te. Senti, ci abbiamo, guardiamo oltre la finestra di questa settimana. Bella, bellissima, difficile. Guardiamo oltre la finestra di questa settimana e vediamo un weekend che potrebbe concludersi con la Juventus che stappa lo champagne e va leggera come l'aria verso martedì e verso il ritorno con il Monaco. Decisamente sì, perché credo che alla fine potrebbe ancora una volta vincere lo scudetto senza stare in campo, perché potrebbe succedere durante o meglio alla fine di Milan-Roma. Credo che se non sarà questa settimana sarà quella dopo. Io penso onestamente che sarà questa, ma a poco cambi. Arriva il sesto scudetto e diciamo toglie pressione alla Juve anche in vista del ritorno della semifinale. Secondo me la Juve poi la pressione per il ritorno se l'è tolta da sola all'andata. Sì. Poi, non trovi poi Ricky non trovi un singolo allenatore, ex allenatore, giocatore, ex giocatore che ti dica la verità, cioè come sono tutti convenevoli il fatto di ma bisogna giocarla, un'altra partita, il calcio strano. Ma quello è anche, giusto, perché poi capisci, siccome il ritorno lo devi giocare, altrimenti sai, Paris Saint-Germain oggi magari sarebbe in semifinale. Ma lascia stare Paris Saint-Germain, che una volta che il calcio funziona così, sono 180 minuti. Il Paris Saint-Germain ha incominciato a far scorta di pannolini 3 giorni prima a Parigi, sono cose che capitano. Ma poi andava in una situazione di difficoltà, ci sono i numeri da analizzare. Ragazzi, i numeri dicono che la Juve non prende gol da 600. Infatti è chiusa. Aspetta. Io spero fortemente che la Juventus prenda un gol innocuo prima per evitarsi l'effetto Bolì. Bravo. Tu vinci 10 partite, arrivi auguro, a più semplice. Auguro la Juventus di beccare un gol innocuo sull'1-0, finisce 1-1 o anche 0-1, magari provoca qualche paturnia, però auguro di beccare un gol nella gara di ritorno, nella mia perversione. Sì. Io c'è doppia strategia in questi casi, cioè il fatto che i giocatori possano sentirsi invulnerabili nel non prendere gol mai e quindi avere una maggiore forza per dire abbiamo fermato Mbappé e Falcao, Messi, Suarez e Neymar, fermiamo pure Ronaldo, Benzema, Bale, sì. Poi, 3 giugno a Cardiff. Guarda, magari chiediamo una mano a Chiellini o a Bonucci. E gli chiediamo di farselo da soli. Ma Riccardo, sei d'accordo con questo pensiero? E cioè che l'unica cosa inedita che abbiamo visto questa settimana nelle due partite della Champions League è stata che per la prima volta il Real ha giocato difensivamente una partita buona. Perché tutto il resto, se vogliamo, cioè che Ronaldo sia un fenomeno, lo sapevamo. Che la Juve fosse superiore del Monaco, sapevamo. Ogni volta dimostra di essere sempre più fenomeno Ronaldo, di quella precedente. Ronaldo ne ha fatti 103. Non me ne parlare. Per carità, gli ultimi tre sono particolari, però non è che l'abbiamo scoperto per martedì. Per me sta 2 gradini sopra l'unica anomalia è anche l'unica cattiva notizia per la Juventus. Cioè che il Real è capace di giocare anche una partita che difensivamente può preoccupare. È che Zidane non è mica un fesso. Esatto, e io vi dico la verità, fino a martedì sera ero praticamente sereno, nel senso quasi certo che la Juve avrebbe vinto la Coppa, proprio sereno, anche per il motivo che il Real Madrid, visto in tutta la stagione, anche in Champions League, Real Madrid che non mi dava grandissime garanzie. Quindi, tanto che ti ricordi Juve... come ci speravano a Napoli. È vero, ma io stesso pensavo onestamente che vista anche la quota che dava 4,50 la qualificazione del Napoli, una volta ogni 2-2,5 potesse succedere che il Napoli di Sarri, bene, non trovasse a sbattersi su Sergio Ramos e sui suoi maledetti colpi di testa. Quindi io pensavo che fosse vulnerabile il Real Madrid, e col Napoli mi è sembrato vulnerabile sia al Bernabeu sia al San Paolo del primo tempo. Mi è sembrato vulnerabile sempre, mi è sembrato straordinario contro l'Atletico Madrid, anche perché io avevo una grande considerazione delle possibilità dell'Atletico Madrid, visto che 3 anni di seguito fuori contro il Real, dico prima o poi, anche per la cabala, anche per la storia, anche per invertire la rotta, l'Atletico ce la farà. Invece non solo non ce l'ha fatta, ma è stata la partita di tutte quelle che hanno giocato contro in cui li hanno veramente cappottati in maniera micidiale. Forse... onestamente Real mi ha fatto paura anche in chiave Juve. Vero, vero, verissimo Riccardo, anche perché è una squadra che può avere il colpo in almeno 5-6 giocatori, se non 7 mettendoci Sergio Ramos, se non 10. Il problema è se comincia a giocare forte pure dietro. E se comincia a giocare forte pure dietro. Il problema è quello. Tra l'altro io credo, io la butto lì come provocazione, ed è questa. Io credo che una delle chiavi per capire se Zidane potrà arrivare un po' più fiducioso o meno alla finale è se avrà almeno un infortunio e che gli consenta di non doverli fare giocare tutti. Guarda, c'è una statistica che ha pubblicato, credo, il Mundo Deportivo l'altro giorno, di Cristiano Ronaldo con Bale e senza Bale. E quando è costretto a giocare con Bale segna la metà dei gol, media di quando il Real vince meno. Ce l'ha detto mille volte. Insomma, il problema sarà la gestione di Bale, ma se non solo di Bale, anche degli altri. Ma c'è una legge in Galles per cui Bale deve giocare, è una legge scritta questa. Comunque oggi Zidane ha detto che non giocano per editto, la BBC non gioca per editto. Sì, ha cominciato a mettere davanti quella, le mani. Sai che ci sono i vari gradi della legge come del giudizio, no? Quella è una legge costituzionale, il fatto che Bale gioca la finale a Cardiff, non se ne parla neanche. Penso che metteranno in mezzo anche il primo ministro, però vi dico una cosa, io sono un baileano, nel senso che il super uomo che è capace di portare il Galles praticamente in finale di un europeo con una squadra, diciamo, in realtà non straordinaria, a me ha fatto impazzire lì a commentare la semifinale dell'Europeo, i brividi a vedere Bale come portava su una squadra molto più scarsa quasi a giocarsela, quindi sono un fan di Bale. Detto questo, la stagione di Isco, il momento di Isco, le qualità di Isco consiglierebbero largamente l'impiego di Isco, poi capisco che siamo in Galles e magari il primo tempo gioca bene. Dovrebbero giocare Isco, Kroos, Modric e Casemiro. Il problema è che se tu hai tutti gli altri, uno di questi resta fuori. È il solito problema Giovanni, è il solito problema del Real Madrid fin da quando avevamo le braghe corte. Ricky, ti chiedo ancora una cosa, poi ti saluto. Secca, chi arriva secondo in campionato? Il Napoli. Sono d'accordo. Capuano? Napoli. Napoli, tra l'altro, secondo me questo non è il weekend che assegna lo scudetto, intanto perché non sono sicuro che la Juve questa partita la vinca col Toro, per questioni di motivazione. E poi anche perché la Roma gioca contro il Milan, che è disastrato. Per la Roma è l'ultima chiamata, ha un calendario talmente più complicato rispetto a quello del Napoli, che dietro ha un punto che se deve far saltare il banco deve farlo saltare domenica sera a San Siro, altrimenti diventa veramente complessa. Non mi sembra un'impresa titanica guardando il Milan. Riccardo, grazie. Ma guardando la Roma ultimamente neanche, però esatto, morti contro feriti gravi, per usare un'espressione poco elegante, ma calcisticamente parlando. Ciao Riccardo Trevisani da Sky. Ciao Pasquale. No, Pasquale lo sentiamo, la provincia di Salerno ci aspetta da un'era geologica. Dica. Pronto, ciao. Buon pomeriggio e grazie della convocazione. Ma nell'ultima tranche sono d'accordo anch'io, il Napoli secondo, però volevo riallacciarmi al primo discorso di Monchi e Totti. Sì. Esatto. Pur essendo io tifoso del Napoli, ovviamente, però abbiamo vissuto noi in passato qui in Campania un episodio molto significativo. Nella squadra di basket dell'allora Juve Caserta giocava uno, secondo me, dei migliori giocatori stranieri che abbia mai militato nel basket italiano, Oscar Smith, brasiliano. Oscar era il tipo da fare 35-40 punti. Lo ricordo, lo ricordiamo tutti noi appassionati di basket. Quindi? Quando hanno esautorato, mandato via, i ragazzi della Juve Caserta hanno vinto lo scudetto. Sì, Oscar è venuto nella mia Pavia e ci ha portati in A1. Chiudo così, grazie. Ci sentiamo subito dopo il GR con Racing Team, io Giovanni Capuano, ma soprattutto Roberto Ungaro e Leo Turrini. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgio Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Te vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Racing Team. Ah, ragazzi, che festa! Venerdì a quest'ora è il momento del Racing Team Club e vedo in regia spuntare Rosalba Reggio, Nostra Signora delle televisioni, con un sacco di bellissimi ospiti. Tra l'altro potete vederci anche con la webcam, c'è Roberto Ungaro, come al solito. Yuhu. Estremamente affascinante, molto trendy, maglioncino blu, t-shirt bianca, senza casco. No, il casco c'è. Abbiamo anche i caschi. Vedere i per caschi. Per essere coerente, devo farla col casco. Lasciamo stare i caschi. Però ce li abbiamo i caschi. No, perché è una mezz'ora pericolosa, per questo. È una mezz'ora pericolosissima, anche perché c'è Leo Turrini. Ah, Leo. Ovviamente. Ciao Leo. Come voi che andiamo benissimo. C'è anche Jarno Trulli. Ah, questo a proposito del salutare il grande Jarno, vorrei fare una rivelazione a chi è fermo sulla Pero Formano. Non so quanti tra voi abbiano saputo che Flavio Briatore ha trattato malissimo Pardo in televisione. Sì, lo sapete. Abbiamo visto e sentito. Sì, è un sì. Precedente. Chiedete a Trulli, peggio di Pardo Briatore aveva trattato solo Jarno. Davvero? Quando lo spedì dalla Renault. Eccoci qua, fategli questa domanda. Vai. Trulli, come ti senti? Sei stato il Pardo della Formula 1, te ne rendi conto? Che cosa è successo? Un campione come te, ma ricordami cosa è successo. No. Cosa è successo con Jarno Briatore? Hai presto detto, nel 2004 Trulli commetteva l'errore con la Renault di andare più forte di Alonso. Sì. Vinse anche a Monte Carlo, dove andremo prossimamente, ed è l'ultimo italiano ad aver vinto quel gran premio meraviglioso. E di lì a poco Briatore, che era il datore di lavoro di Trulli, cominciò ad avere un atteggiamento, diciamo così, non propriamente caloroso. Non usare metafore perché Jarno, un mio caro amico, vorrei che me lo spiegasse lui. Insomma, nemmeno finì la stagione. Trulli è l'unico pilota che ha vinto in un campionato a Monte Carlo ed è stato licenziato. Quindi per Pardo ci sono delle belle speranze di diventare direttore a media. Jarno! Eccomi. Allora? Allora la storia è più o meno quella, insomma. Poi in effetti andavo tanto forte, troppo forte, forse non combaciavano con gli interessi di Flavio, perché io ero in scadenza di contratto e quindi è stata un po' complicata la cosa. A quel punto lì ho dovuto mollare, cambiare aria e tra l'altro ero stato, diciamo, bollato come un pilota ormai arrivato e io saltai giù dalla Renault, saltai su una Toyota che era da metà classifica e subito alla prima gara da pilota ormai bollito feci la pole position. Alla faccia di Monsieur Briateur. Ci sono speranze anche per Pardo. Ci sono. Avete capito? Perché Trulli reagì alla grandissima e quindi Pardo, secondo me, non si deve poi abbattere più di tanto. Salutatemelo, è Pardo. Sì, quando riusciamo a beccarlo al telefono. Intanto sappiamo che, cioè, ovviamente sappiamo. Sono stupito, ovviamente. Ecco questa storia di Trulli, Pardo, Briatore. Tu riesci sempre a stupirmi anche non dopo anni che ci conosciamo. Ormai siamo una coppia di fatto, io e te, Leo Turrini. Ma perché eravamo io, Nuvolari, Barzi, hai capito? ci conosciamo dagli anni 20 del secolo scorso, anche Trulli che fa tanto lo sgardolino produce vino, anche lui è vecchissimo. Lo so che produce quindi... vino, ma io sto ancora aspettando le bottiglie che mi ha promesso qualche mese fa, non sono ancora arrivate. Ma no, lui produce vino, non è che regala vino. No, però me l'aveva promesso. No, no, no, però me l'aveva promesso. Quando... me l'aveva promesso, abbi pazienza. Poi io le divido con Turrini, con Roberto Ungaro, con te Giovanni Gabuano, con tutti, anche con qualche ascoltatore. È weekend di moto, Roberto, stanno girando in Spagna. Jerez si ritorna in Europa, inizia frontera. Praticamente un secondo campionato, diciamolo così. Stamattina hanno girato però con l'acqua, quindi ci fa vedere poco. Dani Pedrosa è stato il più veloce, però è servito a poco, mentre invece questo pomeriggio sono appena finite le FP2 sull'asciutto e si è confermato di nuovo Dani Pedrosa. Alle sue spalle Jack Miller, ricordiamolo con la sua gara strepitosa sull'acqua, quindi l'australiano è temibile. Crocodile. Ma per domani e domenica è previsto sole, quindi grande gara, grande spettacolo come sempre. Attenzione che è risorto Lorenzo, si è fatto vedere addirittura quarto, si trova un po' meglio. Sai che ci sono tante chiacchiere, dovevamo avere al telefono il nostro Claudio Domenicali. Claudio Domenicali, purtroppo, che no, l'avevamo annunciato, e l'appuntamento era serio, perché non siamo venditori di fumo, il numero uno della Ducati, però è impegnato in sessione permanente, in riunione a Stoccarda. Perché ci sono voci nemmeno troppo segrete di una Ducati che potrebbe cambiare proprietà, quindi sono giorni importanti, ma Domenicali lo aspettiamo al più presto. Insomma, io vorrei prima di chiudere ovviamente con la Formula 1 chiedere a Jarno Trulli invece come vive il motomondiale. Anch'io mi sono appena alzato dal divano, ero lì a guardarlo, ho dato uno sguardo. Al mattino chiaramente era bagnato, il pomeriggio Pedrosa di nuovo là davanti a tutti, però stiamo attenti perché è stato bello vedere Lorenzo tornare in una buona forma, ma mancano ancora Vignales, Valentino, Marquez, tutti lì dietro che insomma aspettano, certo. Oggi era una giornata un po' di transizione, io il motomondiale lo seguo quasi sempre quando posso perché... non sempre sono a casa, certo. L'ho sempre seguito dai tempi di Lawson, dai tempi di Svant, da sempre. Vedo Roberto Ungaro uscendo una lacrimuccia. Come non si può non seguire il moto mondiale se sei pilota, anche con due ruote in più, e Jarno ci dice proprio la conferma di questo. Ma Jarno, chi ti piace di più, a parte magari il solito Valentino, chi è che ti colpisce? Io non sono uno che piace o non piace, io guardo sempre con l'occhio clinico e bravo, tecnico, sinceramente. Valentino è un fenomeno perché alla sua età continua ancora a essere competitivo e sicuramente ha perso almeno un secondo rispetto a quando era più giovane e riesce ancora a esserlo davanti, lo fa con maestria, lo fa con grande esperienza. Non è più il Valentino di una volta, eppure i giovani devono star lì a smanettare per stargli davanti. Oggi come oggi, a mio avviso, ormai sono un po' di anni che l'ho dimostrato, è sicuramente Marquez quello che ci sa più fare con una moto. Vignales sta facendo bene, ma non è Marquez. Marquez è quello che ha sicuramente qualcosina in più rispetto a tutti gli altri. Però se ne cantano... È un po' il Valentino... È un po' il Valentino Rossi di una volta, di quando arrivò, giovane, un po' sì, cazzatore, sicuramente volenteroso. Oggi Valentino, ripeto, è là davanti, lo fa perché è un grande talento, un grande mestiere, ha grande esperienza, ma se deve tirar su quel mezzo secondo dove ci deve andare di cuore, insomma, secondo me alla sua età diventa più difficile. Lascio l'ultima domanda di Formula 1 per Jarno Trulli a Leo Turrini. No, beh, io volevo chiedere a questo straordinario produttore di vini se pensa che la Ferrari anche da Barcellona in poi sarà sullo stesso livello della Mercedes, perché Jarno sa meglio di me che quando si arriva al Gran Premio di Spagna tutte le scuderie portano, no, novità molto consistenti, pacchetti di sviluppo, eccetera. Ecco, tu cosa ti aspetti da questa gara in Catalogna? Con Lauda che dice la Ferrari è nettamente davanti alla Mercedes. No, allora, Leo sa benissimo, ha analizzato subito in due parole qual è la situazione. La situazione è che sappiamo tutti che quando si arriva a Barcellona tutte le squadre hanno un pacchetto di solito aerodinamico che porta a fare un salto di almeno mezzo secondo. la cosa che mi ha fatto, che mi fa ben sperare, è che Ferrari comunque ha già portato degli sviluppi, non a livello aerodinamico, ma a livello di motore, credo sul turbo, a Sochi in Russia, e sono andati particolarmente bene. Ora non hanno vinto, ok, però la Ferrari è stata molto competitiva lì, e quindi mi fa ben sperare per il futuro. Una cosa è certa, sarà un campionato che si vincerà solo sulla base degli sviluppi dell'anno, perché le tue macchine sono molto molto vicine, e quindi bisognerà continuare a lavorare durante tutto l'anno per poter fare sempre quel passettino in avanti rispetto al proprio avversario per essere più competitivi. È questione di dettagli e questo è meraviglioso. Grazie Jarno, un abbraccio. Niente, ciao a tutti, a ciao. Presto. Un abbraccio, ciao, Jarno, ciao. Ciao. Un abbraccio a Jarno Trulli. Leo Turrini, io so di che cosa vuoi parlare tu. Io lo no, so. Io prima però volevo invece sì, dire una cosa a beneficio degli amici di Carlo Genta che ascoltano Genta. Questa trasmissione ci possono anche guardare con la sua telecamera. Non lo sapevo, ma immagino che ti servirà per essere competitivo con Iannone su un altro terreno. Lì ti fermo subito perché, no. Perché Ungaro ti ha portato un regalo. Leo, ti ho portato un regalo. Siccome so che tu sei sempre in apprensione per avere notizie fresche di Belen, a lui interessa Belen. Allora, tra pochi minuti, ci collegheremo con Carletto Pernat, agente, manager di Iannone. Puoi chiedere di tutto. Che lui, sai che vivendo H24 o quasi con Andrea Iannone, è al corrente degli ultimi aggiornamenti, così tu puoi soddisfare la tua curiosità. Per la mia fanline, come si diceva un tempo, no? Questa pubblicazione degli Iannone Fan Club, ti sono molto grato. Però volevo dirvi una cosa che mi fa piacere ricordare, dicevo, a beneficio degli amici di Carlo Genta, perché le moto sono ARS e ARS esattamente 20 anni fa, nel 1997, Jacques Villeneuve vinse il suo famoso titolo mondiale di Formula 1 battendo Schumi con l'arcinoto collisione, l'ultima gara. Ecco, lunedì sono 35 anni che ci ha lasciato Gilles Villeneuve, che rimane ancora oggi nella memoria di intere generazioni di ferraristi come il pilota più amato, e mi fa molto piacere ricordarlo qui con voi, perché è un sentimento straordinario. Pensate che Gilles vinse solo 6 Gran Premi in 5 anni con la Rossa, quindi non si può certo dire che siano stati risultati. E non è leggenda che fosse anche il pilota più amato dal capo. Però è stato un mito per l'Italia degli anni 70, per chi come me era ragazzo allora, e mi fa tanto piacere ricordarlo con voi, perché io credo che soprattutto i motori nel contesto dello sport vivano anche di memoria. L'altro giorno sentivo dire: ma in atletica vogliono cancellare i record, compreso quello di Mennea. È perché ormai il mondo è in mano agli stupidi che non capiscono che se ci togliamo il valore del ricordo azzeriamo la passione. Come se qualcuno venisse e dice: ma i mondiali di Giacomo Agostini non contano più, no? Perché adesso c'è l'elettronica, sono cambiate le cose. Lasciali giocare con Facebook e con Twitter e con queste stronzate qua. Sono follie contro le quali dobbiamo ergere un argine. Scusate se ho divagato, ma mi chiamano il dottor Divago e per G questo ed altro. Hai fatto benissimo, non è un segreto e non è leggenda che sia stato il pilota più amato da Enzo Ferrari. Beh, sai, Ferrari fu solo per Gilles che scrisse quelle famose 2 righe dopo una vittoria di Villeneuve in un Gran Premio proprio in Spagna, a Rama, nella zona di Madrid, scrisse quelle 2 righe a commento del successo del canadese: ieri ho rivisto Tassi Nuvolari. E l'ha fatto solo per Villeneuve, e tutti sanno, meno i conoscitori del personaggio Ferrari, quale fosse la venerazione che il vecchio aveva per Nuvolari, e quindi in quell'accostamento c'è proprio forse la spiegazione di questo sentimento che resiste, ripeto, perché parliamo di un pilota che ha vinto poco, non ha avuto il tempo di laurearsi campione del mondo, eppure per chi c'era resta un'icona indimenticabile. Un'icona, hai usato come al solito la parola ideale. Io vado da Giovanni Capuano, che è un neutrale. C'è una differenza fondamentale tra Iannone ed Hamilton. Che uno è in moto e l'altro è in auto. No, non è questa, non è quella. Che Hamilton comunque ha continuato a rimanere competitivo, anche se, come ha detto il creatore, faceva il Pirla e DJ. Anche se hanno perso il titolo mondiale per quello, però continua ad andare forte, eccetera. Iannone no. Ah, io sono convinto che prima o poi anche Iannone ricomincerà ad andare fortissimo. E non lo dico perché c'è Carlo Pernat che ci ascolta. Io non ne sono. Ma perché ne sono convinto? No, io... State attenti che vi pacchetto. Ciao Carlo. Ciao Carletto. Come va da quelle parti in Spagna? Ma guarda, stamattina pioveva, abbiamo saltato praticamente un turno. Non che è stato saltato, però il confesso bagnato. Sì, salva non niente. Metti a posto niente, bravissimo. È un po' il primo turno, quindi c'è un po' di sorpresa in tutti i generi, perché hai visto che Marquez è dietro, Rossi è dietro, sono fuori dai 10. Fuori dai 10 anche Iannone. Cioè, questa è una cosa un po' strana. Rossi dietro non è una sorpresa. Ma anche Marquez, sì, Marquez invece è una sorpresa. Marquez sì. Ma sai perché? Penso che abbiano usato non le gomme morbide, quelle che hanno fatto i tempi, hanno usato le gomme morbide, e quindi chiaro che guadagni qualcosa. Forse hanno guardato più sul passo. È una mia opinione, perché sai, il tempo adesso di verificarlo non c'è. Sì. Però anche se fosse così è un po' un errore, perché sai, c'hai solo un turno per stare nei 10, quindi sai, o uno ha coscienza di essere fortissimo e se ne frega, tra virgolette, di perdere un turno, oppure forse stanno preparando qualcosa che non lo sappiamo e possono avere qualche problema sulla moto. Strano, perché Pedrosa sta andando molto, molto, molto forte. Sì. Carlo, Lorenzo IV è risorto o un fuoco di paglia? È la voce del nuovo telaio che stanno preparando proprio apposta specifico per Lorenzo. È vero oppure no? Guarda, due cose separate. Allora, diciamo che il giro è stato fatto con la gomma morbida. Questo è importante. Chiaramente Lorenzo, questa è una pista sua, per cui sicuramente qualcosa di suo ci mette. Fare due giri è poco, perché poi visto che il terzo e il quarto giro che faceva con le gomme dure, di passo eri 8 decimi più lento. Quindi sai, non è che siano fuochi di paglia, sono gomme morbide che tu prendi anche sicurezza, stai in piedi, giri forte, magari nella mente ti scatta la scintilla di dire anche con la gomma dura magari vado un tantino più forte. Però secondo me prima che ci esca Lorenzo, io la vedo un po' dura. Ce ne vuole. Dovizioso, sì, secondo me Dovizioso sarà un po' l'alfiere della Ducati. A mio parere sarà lui che terrà la bandiera alzata con qualche bella gara. Non sono i circuiti adatti. Qui è difficile. I circuiti adatti erano quelli prima. E il nuovo telaio, Carlo, ma è vero oppure... Ma guarda, sicuramente c'è una volontà di farlo, ed è vero. Perché, se hai fatto caso, non hanno nemmeno verificato la carena che dovevano portare. La seconda. Qualcosa bisogna fare. Io ho sempre detto, mi pare anche da voi, che le alette contavano tantissimo. Molto. Io pensavo che contassero 10% in accelerazione e 10% in frenata. Il totale fa 20. Mi hanno dato un po' del pazzo, però ho visto che quando le alette l'ha fatta la Ducati, che faceva dei grattacieli, se ti ricordi, le alette, l'hanno fatte anche tutti gli altri. Quindi vuol dire che qualcosa servivano, se no non ci andavano dietro. No, sì, è chiaro che è giusto, no? C'è la Honda, però, che è la più grossa nemica, perché la Honda, se vi ricordate, gli avevano fatto lo sgarro della centralina unica, andandogli a toccare il settore più forte che avevano in casa, e qualche problema gli hanno creato. La Honda ha visto che nelle commissioni, se tutti non sono d'accordo, i cambiamenti non sono fatti, basta un veto di una casa. La Honda si è schierata contro e ha detto basta alette. E secondo me l'ingegner da linea si è buttato nel fuoco per tenerle. Si è trovato spiazzato. Certo. Che se ci fate caso, mi pare che domenica o non so quando Lorenzo in un'intervista abbia detto che senza alette è un'altra, che con le alette è un'altra cosa. Ma io so che aspetta, che c'è Leuturini che vuole fare delle domande tecniche a Pernat. No, ma cioè, io adesso non voglio parlare a nome degli Annone Fan Club, perché mi state mettendo un po' in difficoltà. Sei presidente degli Annone Fan Club. Vai tranquillo. No, invece volevo chiedere una cosa a Pernat, che per me è un po', voglio dire, come una sorta di lume tutelare, no? Ringrazio Valentino Rossi, la prima volta che era in testa dopo 3 gare al mondiale della MotoGP era il 1937, no? Quindi insomma, avanti Cristo. Ce la può fare veramente a prendere questo decimo titolo? Cioè, perché la gente comune come me è entusiasta della classifica iridata e si chiede, ma ce la può fare pur essendo ancora più invecchiato, essendo arrivato Vignales in squadra con lui? Leo, tu sei un vigliacco. Chiedere di Belen. Ha fatto una moto molto, ha fatto una domanda molto intelligente. No, non so, però lui voleva parlare di un'altra cosa. Voleva parlare di un'altra cosa, io lo so. Rispondi a questa e poi parli di un'altra roba. Guarda, questa qua ti posso assicurare una cosa. Tutti non sanno, o tutti non dicono, o tutti scrivono poco, che la vera guerra è fra Vinales e Marquez. Perché? Perché se due piloti si sono sempre odiati dall'età di 12 anni, quando facevano le gare anche da giovani, non si parla nemmeno, è un odio atavico, sportivo naturalmente, che, guarda, è pazzesco, credetemi. Valentino, come si diceva i saggi, fra due litiganti il terzo gode, è in questa situazione. Tanto è vero che ad oggi l'asticella è salita tantissimo. Marquez e Vinales vanno più forte, secondo me, di quello che potrebbero andare. E Valentino a 38 anni non può andare forte come loro. Anche se la carta di Valentino è taroccata, secondo me, con la scolorina. Io ti dico francamente... Valentino è in testa perché ha gestito gli errori degli altri andando forte, ma certo, no? certo. Quindi io mi aspetto, sai, fare due zeri, due piloti dopo tre gran premi, io credo sia mai successo, e ce ne saranno degli altri secondo il mio punto di vista, perché l'asticella è talmente alta di quei due che non ci puoi non e andare lì per si infila terra. Valentino, speriamo tutti si infili Valentino, ma adesso Leo Turrini, abbiamo ancora un minuto, dato che abbiamo ancora un minuto, Carlo, fai la domanda, la domanda tecnica che veramente mi sta molto a cuore, ma onestamente Belen ha migliorato il rendimento in pista di Iannone o lo ha depresso? Io vorrei da Pernat un chiarimento definitivo, perché qui tutti si arroventano, si aggrovigliano, si guardano con questo quesito. Io te lo finisco con dicendo due parole che c'entrano e non c'entrano. Ragazzi, la Belen è un gran bel telaio. Ci vorrebbe al posto di quello della Suzuki. Dio mio. Amen. Amen. Non voglio aggiungere altro e voglio chiudere con queste parole di Carlo Pernat questo appuntamento di tutti convocati a Racing Team. Altro che Bar Sport, questa è Officina 24. Altro pianeta, ragazzi. Altro pianeta. Ringrazio Porto ovviamente il calendario, Carlo Pernat. Prossima volta. Qua. Ah, sì, il calendario dell'elettrauto. Grazie a Leo Torri. Ciao a tutti. A Giorgio De Luca, nostro dottore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione, a Giovanni Capuano, ci sentiamo domenica alle 17, sì, ci divertiamo, a Roberto Ungaro, e ci sentiamo venerdì, e tutti voi, basta, finito, ringraziamenti finiti, devo ringraziare anche la zia, la mamma, i fratelli, eccetera. Basta così, ciao, abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti.